Treno per casa, Villa Placido incontro alla notte, raccoglie paesi minuscoli in una collana. Domattina alle 7:50 raccoglierà il mio. Siamo tutti studenti su questo vagone, imbroglioni imbrogliati dal sonno. Anche io vorrei tanto riuscire a dormire. La mia faccia, lo specchio non mente, non sembra granché. Ieri sera alla festa dei calabresi ho bevuto una vodka di più ed ho in testa un miliardo di piedi che ballano il folk. Sta finendo il mio tempo per dirmi bugie, sta passando la mia gioventù, ma che mi serve per stare nel mondo? Ora non so. Il mio paese sarà caldo e materno, severo e paterno, non appena mi vedrà arrivare. Come stai, come stanno le cose, la casa e gli esami e gli studi, e maglioni ne hai. La mia stanza mi aspetta come la lasciai, e mia madre sarà generosa, ed il letto pulito e ripulito del ragazzo che non sono più. Sta finendo il mio tempo per dirmi bugie, sta passando la mia gioventù, ma che mi serve per stare nel mondo? Si alzava ogni giorno alle 6 per vedermi, per farmi studiare. Quanta fatica, quanto sonno perduto, quanto amore sprecato per me. Quando salgo di nuovo mi studio gli appunti, qualche pagina, qualche dispensa, e tentare un complementare, vedremo chissà. Treno per casa, esce Placido da questa notte e raccoglie paesi minuscoli in una collana. Tra un momento alle 7:50 raccoglierà il mio.